I numeri che non lasciano resto, se divisi per due, sono quelli che sono divisibili per due. Che nome può accomunare tutti questi numeri?